«Mi prendete in giro?» disse ridendo anche lei, Madame Cottard, mentre con la mano si cancellava dalla fronte, con la leggerezza di un ipnotizzatore e la destrezza di una donna che s'aggiusta l'acconciatura, le ultime tracce del sonno. «Voglio porgere le mie umili scuse alla cara Madame Verduran e sapere da lei la verità». Ma il suo sorriso si fece subito triste, perché il professore, il quale sapeva che la moglie cercava di piacergli e tremava di non riuscirci, le aveva gridato: «Guardati allo specchio, sei rossa come se avessi un'eruzione di acne, sembri una vecchia contadina». «Sapete, è una persona incantevole», disse Madame Verduran. «C'è in lui un lato simpaticissimo di bonaria ironia. E poi ha strappato mio marito dalla soglia della tomba, quando l'intera facoltà l'aveva dato per spacciato. Ha passato 3 notti accanto a lui senza mai dormire. E così, sapete», aggiunse in tono grave quasi minaccioso, alzando la mano verso le 2 sfere dai bianchi ciuffi delle sue tempie musicali, e come se avessimo voluto criticare il dottore, «per me Cottard è sacro. Potrebbe chiedermi qualsiasi cosa. Del resto non lo chiamo mica il dottor Cottard, lo chiamo il dottor Dio. E ancora così non gli rendo giustizia, perché questo Dio rimedia, nella misura del possibile, a una parte delle sventure di cui l'altro è responsabile». «Giocate una tu», suggerì Charlie a Morel, con aria felice. «Proviamola tu», disse Morel. «Prima avreste dovuto dichiarare il vostro re», osservò Charlie. «Siete distratto». «Come giocate bene, però». «Ho il re», disse Morel. «È un bell'uomo», replicò il professore. «Che cos'è quell'affare con quei pioli?» chiese Madame Verduran al signor di Cambremè, indicandogli un superbo scudo scolpito sopra il camino. «Sono le vostre armi?» aggiunse con ironico disdegno. «No, non sono le nostre», rispose il signor di Cambremè. «Noi abbiamo 3 fasce merlate e contromerlate a 5 punte in campo d'oro, ciascuna con un trifoglio d'oro. No, quelle sono le armi degli Arachepel, che non erano del nostro ceppo, ma dai quali abbiamo ereditato la casa. E quelli del nostro lignaggio non hanno mai voluto apportarvi alcuna modifica. Gli Arachepel, più anticamente pare Pelvilaine, avevano 5 pali a punta merlata in campo d'oro. Quando si imparentarono con i Féterne, il loro stemma cambiò, ma vi rimasero 20 crocette ricrocettate al palo piantato in campo d'oro, con a destra un volo d'ermellino». «Beccati questa», disse a voce bassissima Madame de Cambremer. «La mia bisnonna era una d'Arachepel, o de Rachepel, come preferite, giacché nei vecchi documenti si trovano entrambi i nomi», continuò il signor de Cambremer, il quale arrossì bruscamente, perché solo allora fu colpito dall'idea di cui la moglie lo aveva accreditato e temette che Madame Verduran avesse preso per sé delle parole che non la riguardavano affatto. «La storia vuole che nell'undicesimo secolo il primo Arachepel, Massé, detto Pelvilaine, abbia mostrato una particolare abilità durante gli assedi nello sradicare i pali, di qui il soprannome di Arachepel, con il quale fu creato nobile, e i pali che vedete persistere attraverso i secoli nelle loro armi. Si tratta dei pali che, per rendere più inattaccabili le fortificazioni, venivano piantati o conficcati, se mi passate l'espressione, nel terreno antistante e collegati l'un l'altro. Sono quelli che voi chiamate così bene pioli, e che non avevano nulla a che vedere con i bastoni galleggianti del Bon La Fontaine. Si diceva infatti che rendessero inespugnabile una piazza. Con l'artiglieria moderna, è chiaro, questo fa sorridere, ma bisogna ricordarsi che si tratta dell'undicesimo secolo». «Manca d'attualità», osservò Madame Verduran, «ma il piccolo campanile ha un certo carattere». «Avete», disse Cottard, «una fortuna da turlututu», parola a cui ricorreva volentieri per schivare quella di Molière. «Sapete perché il re di quadri è riformato?» «Vorrei proprio essere al suo posto», disse Morel, che era stufo del servizio militare. «Che cattivo patriota!» esclamò Charlie, che non poté trattenersi dal pizzicare un orecchio al violinista. «Allora non sapete perché il re di quadri è riformato?» riprese Cottard, che teneva alle sue spiritosaggini. «Perché ha un occhio solo!» «Avete un avversario terribile, dottore», disse il signor di Cambremer, per mostrare a Cottard che sapeva chi fosse. «Questo giovanotto è straordinario», interruppe ingenuamente Charlus, indicando Morel. «Gioca come un dio». L'osservazione non piacque molto al dottore, che replicò: «Chi vivrà, vedrà. Qui c'è pane per i suoi denti». «Donna e asso!» annunciò trionfalmente Morel, che aveva la sorte dalla sua. Il dottore chinò la testa, come a riconoscere tanta fortuna, e ammise affascinato: «Magnifico! Siamo stati molto contenti di pranzare con il signor di Charlus», disse Madame de Cambremer a Madame Verdurin. «E non lo conoscevate? È abbastanza piacevole, è particolare, è talmente di un'epoca», sarebbe stata assai imbarazzata se avesse dovuto specificare quale, osservò Madame Verdurin con il sorriso soddisfatto d'un amatore, d'un giudice e d'una padrona di casa. Madame de Cambremer mi chiese se sarei andato a Féterne con Salut. Non potei trattenere un grido d'ammirazione vedendo la luna sospesa come una lanterna arancione alla volta di querce che si dipartiva dal castello. «Non è ancora niente. Fra poco, quando la luna sarà più alta e la valle illuminata, sarà mille volte più bello. Ecco qualcosa che a Féterne non avete», disse sprezzantemente Madame Verdurin a Madame de Cambremer, la quale non sapeva cosa rispondere, non volendo deprezzare la sua proprietà, soprattutto di fronte agli inquilini. «Vi trattenete ancora un po' nella regione, signora?» chiese il signor di Cambremer a Madame Cottard, il che poteva passare per una vaga intenzione di invitarla e dispensava intanto da un appuntamento più preciso. «Oh, certo, signore. Tengo molto per i bambini a questo esodo annuale. Se ha un bel dire, hanno bisogno di aria aperta. La facoltà voleva mandarmi a Vichy, ma là c'è troppo soffoco e mi occuperò del mio stomaco quando questi ragazzoni saranno cresciuti un altro po'. E poi il professore, con tutti quegli esami, deve fare una bella sgobbata e il caldo lo affatica molto. Trovo che sia bisogno di una bella distensione quando, come lui, si è stati tutto l'anno sulla breccia. Comunque, resteremo ancora un buon mesetto». «Ah, allora avremo modo di rivederci. D'altronde sono costretta a restare anche perché mio marito deve fare un giro in Savoia e sarà fisso qui solo fra una quindicina di giorni. La parte della valle mi piace ancor più di quella della costa», riprese Madame Verdurin. «Avrete un tempo splendido per il ritorno». «Bisognerebbe anche vedere se hanno attaccato le carrozze», mi disse il signor Verdurin, «per il caso che teneste proprio a tornare a Balbec questa sera. Quanto a me, francamente, non ne vedo la necessità. Vi faremo accompagnare domattina in carrozza. Il tempo sarà sicuramente bello. Le strade sono stupende». Risposi che era impossibile. «Ma comunque non è ancora il momento», obiettò la padrona. «Lasciali tranquilli, hanno tutto il tempo. Sai che divertimento per loro arrivare alla stazione un'ora prima. Stanno meglio qui». «E voi, piccolo Mozart», disse a Morel, non osando rivolgersi direttamente al signor di Charlus, «non volete restare? Abbiamo delle belle camere sul mare». «Ma non può», rispose Charlus, per il giocatore assorto che non aveva sentito. «Ha il permesso solo fino a mezzanotte. Bisogna che torni a fare la nanna come un bravo bambino obbediente», aggiunse con voce compiaciuta, manierata, insistente, come se trovasse qualche sadica voluttà nell'impiegare quel casto paragone e anche nel premere la voce di passaggio su quanto concerneva Morel, toccandolo, se non con la mano, con parole che sembravano palparlo. Dal sermone rivoltomi da Brichot, il signor di Cambremer aveva tratto la deduzione che io dovevo essere dreyfusista, perché lui era anti-dreyfusista al massimo. Per cortesia verso un avversario si mise a tessermi l'elogio di un colonnello ebreo che era sempre stato molto corretto con un suo cugino di Chevrigny e gli aveva fatto avere la promozione che meritava. e mio cugino era un uomo di idee assolutamente opposte», sottolineò il signor di Cambremer, sorvolando su quali fossero tali idee che tuttavia intuì antiche e malformate al pari del suo volto, idee che alcune famiglie di certe piccole città dovevano avere da chissà quanto tempo. «Ebbene, sapete, io trovo molto bello tutto ciò», concluse il signor di Cambremer. Vero è che non impiegava quasi mai la parola «bello», nel senso estetico in cui avrebbe designato per sua madre o sua moglie opere diverse fra loro, ma comunque opere d'arte. Lui ricorreva piuttosto a questo aggettivo, rallegrandosi, per esempio, con una persona delicata che avesse acquistato un po' di peso. «Come? Avete ripreso 3 chili in 2 mesi? Ma sapete che è bellissimo!» Su un tavolo erano serviti dei rinfreschi. Madame Verdurin invitò i signori ad andare personalmente a scegliersi la bevanda che preferissero. Charlot andò a bere un bicchiere. Tornò in gran fretta a sedersi accanto al tavolo da gioco e non si mosse più. Madame Verdurin gli chiese: «Avete assaggiato la mia aranciata?» Al che Charlot, con un sorriso grazioso, in un tono cristallino che aveva di rado e con 1000 smorfie della bocca e altrettanti ancheggiamenti, rispose: «No, ho preferito il vicino. Un succo di fragole, credo, era delizioso». È singolare che un certo ordine di atti segreti abbia come conseguenza esteriore un modo di parlare o di gesticolare che li rivela. Se un tale crede o non crede all'Immacolata Concezione o all'innocenza di Dreyfus o alla pluralità dei mondi e preferisce tacerne, non si troverà nella sua voce o nel suo modo di camminare nulla che lasci scorgere il suo pensiero. Ma sentendo Charlot esclamare con quella voce acuta e quel sorriso e quel movimento delle braccia: «No, ho preferito il vicino, il succo di fragole», si poteva arguire: «Toh, gli piace il sesso forte», con la medesima certezza che permette al giudice di condannare un criminale non confesso, al medico un paziente affetto da paralisi generale che magari è lui stesso ignaro del proprio male, ma ha commesso tali errori di pronuncia da potersene dedurre che morirà nel giro di 3 anni. Forse, per collegare il modo in cui uno dice «No, ho preferito il suo vicino, il succo di fragole», a un amore cosiddetto antifisico, non c'è bisogno di tanta scienza. Ma è che qui il rapporto fra il segno rivelatore e il segreto è più diretto. Senza che ce lo diciamo con precisione, sentiamo che a risponderci è una dolce e sorridente signora, la quale sembra manierata perché si fa passare per un uomo e non si è abituati a vedere gli uomini fare tante smancerie. Ed è forse più grazioso pensare che da molto tempo un certo numero di donne angeliche siano state comprese per errore nel sesso maschile dove, esiliate e battendo invano le ali verso gli uomini cui ispirano una repulsione fisica, sanno sistemare un salotto, compongono degli interni. Il signor di Charlot non si preoccupava che Madame Verdurin fosse in piedi e rimaneva installato nella sua poltrona per essere più vicino a Morel. «Non vi sembra un delitto?» chiese Madame Verdurin al barone, «che quell'essere che potrebbe incantarci col suo violino se ne stia seduto a un tavolo d'écarté, quando si sa suonare come lui? È bravo anche con le carte, fa tutto bene, è così intelligente», disse Charlot senza perdere d'occhio il gioco per poter consigliare Morel. Non era questa d'altronde la sola ragione per cui non si alzava dalla poltrona davanti a Madame Verdurin. Con il singolare amalgama che egli aveva fatto delle sue concezioni sociali, al tempo stesso da gran signore e da amatore d'arte, anziché essere cortese nel modo in cui lo sarebbe stato un uomo del suo ambiente, Charlot componeva nella propria mente, sui modelli di Saint-Simon, delle specie di quadri viventi. E, in quel momento, si divertiva a impersonare il maresciallo d'Uxelles, che lo interessava anche per altri aspetti e di cui si dice che fosse tanto vanaglorioso da restare seduto, con aria indolente, davanti a quanto a corte c'era di più distinto. «Dite, Charlot», lo interrogò Madame Verdurin, che cominciava a prendere confidenza. Non ci sarebbe nel vostro faubourg qualche vecchio nobile rovinato che potrebbe farmi da portinaio? Ma sì, certo, rispose il signor di Charlus, sorridendo bonariamente. Però non ve lo consiglio. Perché? Avrei paura per voi che i visitatori eleganti non andassero più in là della guardiola. Fu tra i due la prima scaramuccia. Madame Verdurin non vi prestò quasi attenzione. Malauguratamente ce ne sarebbero state altre a Parigi. Charlus continuò a rimanere seduto. Non poteva d'altronde impedirsi di sorridere impercettibilmente, vedendo confermate le sue massime favorite sul prestigio dell'aristocrazia e la viltà dei borghesi dalla sottomissione, così facilmente ottenuta, di Madame Verdurin. La padrona non sembrava affatto stupita della posizione del barone, e se si decise a lasciarlo fu solo perché si era preoccupata vedendomi alle prese con il signor di Cambremer. Ma prima voleva chiarire la questione dei rapporti di Charlus con la contessa Molé. «Mi avete detto che conoscevate Madame de Molé. Andate da lei?» gli chiese, dando alla frase «andar da lei» il significato d'essere ricevuto da lei, d'aver ricevuto la sua autorizzazione ad andarla a trovare. Charlus rispose con un'inflessione di disprezzo, un'affettazione di esattezza e un tono salmodiante. «Ma sì, a volte». Quella volta ispirò qualche dubbio a Madame Verdurin, che chiese «Avete incontrato il duca di Grammont da lei?» «Ah, questo non lo ricordo». «Ah!» esclamò Madame Verdurin. «Non conoscete il duca di Grammont?» «Ma come potrei non conoscerlo?» replicò Charlus, la bocca incurvata da un sorriso. Era un sorriso ironico. Ma poiché il barone temeva di lasciare intravedere un dente d'oro, lo spezzò sotto un riflusso delle labbra, di modo che la sinuosità risultante fu quella d'un sorriso di benevolenza.